Deborah, metti a posto le antenne perché sembra che chiami da Marte. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Come porti i capelli bella bionda, tu li Scusi, porti alla bella marinara. Guardi, di solito io i capelli me li fa, dipende li molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti indietro. Poi con una e direttamente da Marte, eccomi qua, atterrata di nuovo nello studio di Radio 24, di nuovo in diretta finalmente dopo un lungo periodo. Da domani però ritorno a casa, ve lo anticipo già, oggi in edizione straordinaria la Rosciani appunto si ripresenta negli studi di Radio 24 e quindi ne approfitta per salutare e ringraziare Andrea Roccabella, Danilo Di Trani qui in studio con me questa mattina, tutti belli imbragati con le mascherine, io non la porto perché adesso per un po' devo parlare al microfono, ma naturalmente appunto ne approfitto anche per salutare Mauro Meazza che non è con me questa mattina, stasera non c'è Sebastiano Barisoni e quindi qui abbiamo spiegato le ragioni per cui si è reso necessario ritornare in studio e per completare il quadro salutiamo anche Marco Lombardo che invece ci assiste da remoto. Allora buongiorno a tutti, oggi in diretta regolarmente con Due di Denari e naturalmente vi proponiamo tutti gli argomenti che vi piacciono tanto in questo periodo. Parleremo di borsa, oggi è lunedì, il Meteo Borsa ci sarà regolarmente e monitoriamo con grande attenzione quello che succede sui mercati finanziari perché ci sono dei segnali molto interessanti. Come sapete le borse sono dai massimi di febbraio letteralmente tracollate, ma poi dai minimi di marzo hanno ripreso a correre, sta succedendo soprattutto a Wall Street, un po' meno intensa la corsa europea dove in questo momento chiaramente si fa ancora il conto con la quantificazione e del danno economico che sta determinando appunto la pandemia, oltre a quello terribile, la conta dei morti, dei malati, dei contagiati e quant'altro. Ne parleremo appunto nella prima parte, come sempre facciamo il lunedì con il nostro Meteo Borsa. Un articolato e lungo giornale radio del risparmio, abbiamo tante notizie da condividere con voi. Come nuovo tema di approfondimento invece questa mattina parleremo di un tema che per la verità ci avete proprio suggerito e che devo dire la verità io avevo anche molto sminuito, mi aveva un po' indispettito il fatto che insistevate su questa necessità, quella di sospendere il pagamento per l'RC auto. E invece nei giorni scorsi appunto il tema si è riproposto alla ribalta della cronaca, prima di tutto perché c'è stata un'iniziativa dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, che ha detto con un manifesto anche pubblicato su tutti i giornali, un comunicato stampa molto, molto dettagliato, molto accorato anzi direi, faremo di tutto per stare vicini in questo momento appunto ai clienti delle compagnie di assicurazione con delle iniziative di sostegno e supporto e qualche iniziativa di qualche compagnia in via autonoma c'è stata perché appunto alcune delle grandi compagnie in Italia hanno deciso di venire incontro ai clienti erogando dei voucher, dei buoni appunto da eventualmente utilizzare quando le polizze andranno in rinnovo più avanti. Però insomma il tema della sospensione dell'assicurazione dell'auto non è banale, signori miei, per questo noi stamattina abbiamo voluto fare un approfondimento perché sospendere momentaneamente, e questa possibilità è stata data a molte, è stata data appunto agli italiani perché c'è una norma che lo prevede, adesso vi darò anche i dettagli, ma in realtà contempla anche tutta una serie di comportamenti da rispettare. Non potete utilizzare l'auto per un bel po' di settimane, quindi siete assolutamente sicuri che non la utilizzerete, bisogna avere il garage, bisogna che la macchina sia chiusa in un parcheggio, ferma e non deve stare in mezzo alla strada perché se poi viene naturalmente ad essere protagonista di un sinistro e voi non lo sapete, poi dall'assicurazione però ci dovete andare e in quel caso chiaramente nessuno vi darà retta. Per cui insomma è una questione con il chiaroscuro che va stamattina ben definita. E allora 800 24 00 24, se volete già cominciare, se volete già iniziare appunto a chiamarci in diretta per le vostre domande sull'argomento, se avete già fatto una chiacchiera con il vostro agente, che cosa vi ha risposto, perché come vi dicevo, a parte l'iniziativa di sistema dell'ANIA, dell'Associazione delle Imprese di Assicurazione, poi in realtà qualche giorno prima già qualche compagnia si era mossa in ordine sparso appunto cercando di già intavolare una trattativa con la propria clientela. Questo è quanto faremo stamattina, ma perché siamo partiti con Cocchi e Renato e con la canzone appunto Ma come porti i capelli bella bionda, perché a Rovellasca, in provincia di Como, che cosa è successo? Che gli agenti della polizia locale, impegnati nei controlli per evitare la diffusione del coronavirus, hanno notato nella loro perlustrazione quanto fosse ben pettinato e in ordine un abitante del loro comune. Allora, insospettiti da questo look inappuntabile, pensate insomma che spirito di osservazione avevano questi vigili, lo hanno fermato e quindi l'uomo ha dovuto subito ammettere di essere uscito di casa per andare dal parrucchiere o dal barbiere, non lo sappiamo, che ha scelto di lavorare nonostante i divieti delle norme anticoronavirus. È scattata subito una multa per entrambi e per il barbiere c'è stata anche una segnalazione alla prefettura. Allora, questo ci porta un po' anche a commentare, se vogliamo, un tema che è stato oggetto di grande dibattito e che lo è tuttora. Insomma, ci sono delle multe che a volte vengono date anche un po' troppo alla leggera, sono anche salate. È successo per esempio nei giorni scorsi a quella famiglia che era in auto per portare la figlia a fare il controllo a seguito di un trapianto di midollo, se non mi ricordo male, e in quel caso penso che le forze dell'ordine siano state un po' esagerate nell'attribuire appunto la sanzione in questo caso. C'è stato anche il caso dell'anziano sardo, anche in questo caso se non me lo ricordo male, che aveva in auto la moglie disabile, andava a fare la spesa perché non sapeva dove lasciare la sua consorte, in grande difficoltà appunto a stare da sola in casa. Io dico che le forze dell'ordine, se incontrano dei furbi che fanno dei giri e accusano e accampano delle scuse assurde, se ne accorgono abbastanza rapidamente, per cui mi raccomando, facciamo attenzione a non dare anche delle multe laddove proprio non si rende necessario ed è solamente, come dire, un po' un pretesto per fare i rigidi sul territorio, che è naturalmente sacrosanto, ma io penso che vi accorgiate quando le persone sono davvero in difficoltà e sono costrette magari a spostarsi con l'auto, perché come nel caso dell'anziano con la moglie disabile credo che la questione sia stata abbastanza evidente. Detto questo, il preambolo è stato lungo come al solito, la chiacchiera come vedete non l'ho abbandonata a casa, direi che possiamo partire subito con il racconto della giornata di borsa. Meteo Borsa. Allora, il tempo in borsa quest'oggi è esattamente come quello di Milano, un po' in chiaroscuro, un po' grigio, un po' di pioggerellina. Abbiamo Parigi che parte in questa settimana con un calo dello 0,20%, invece Francoforte è positiva più 0,25%, Londra più 0,24%, Milano inchiodata sulla parità, invece è violento il ribasso del prezzo del petrolio. Ma vi anticipo già che ci sono anche delle ragioni tecniche, a prescindere dalla domanda di greggio a livello mondiale che si è letteralmente paralizzata per le ovvie ragioni, stamattina ad influire sul calo del prezzo del greggio americano ci sono anche ragioni tecniche e ce le spiega Massimo Saitta, direttore investimenti di Intermonte Advisory e Gestione. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, dicevamo sì di questa partenza abbastanza prudente per le borse europee, nonostante Wall Street invece abbia ripreso a correre per tante ragioni. Si guarda ovviamente all'iniziativa di sostegno dell'amministrazione Bush alla ripartenza, alle iniziative della Federal Reserve, ma soprattutto l'America, forse più di ogni altro continente, più di ogni altra economia, vuole guardare assolutamente alla ripartenza economica globale, alla cosiddetta fase 2. Quali sono i fattori che hanno determinato appunto il buon andamento della settimana scorsa, Saitta, e cosa invece oggi frena l'Europa, a suo avviso? Diciamo che il mercato in queste fasi, anzi i mercati in queste fasi, sono alimentati nella loro direzionalità da tre fattori. Uno è sicuramente l'andamento del virus, che determina di conseguenza un po' il secondo fattore, che è l'eventuale tempistica della riapertura, e poi ci sono le azioni di sostegno alle economie e ai danni che in questo momento sono ancora in fase di quantificazione dei cosiddetti lockdown sulle diverse economie. Quindi sono tre argomenti interrelati e dove l'approccio degli Stati Uniti è sicuramente stato molto più marcato, più aggressivo e più volto alla ricerca di un sostegno all'economia, che è un'economia decisamente più levereggiata rispetto a quelle europee, ma che ha anche elementi, se vogliamo, di vitalità o di innesco, insomma, di una ripresa più facile da stimolare. Saitta, quando lei parla di una economia levereggiata, le chiedo gentilmente di spiegare ai nostri ascoltatori cosa intendiamo. Dove Molte società si trovano ad avere esposizioni debitorie molto alte oppure scarsità di cash, quindi di liquidità, per quindi hanno bisogno che la Fed intervenga per rimettere benzina nelle serbatoie per farle ripartire. Allora, sarà una settimana molto importante perché c'è il Consiglio europeo che tratterà del discusso tema sul finanziamento del cosiddetto Recovery Fund e quindi come sosteniamo le economie in difficoltà, con quali strumenti. Come sapete, in Europa non ci si mette d'accordo fra l'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità o l'eventuale emanazione di corona bond, di obbligazioni dal rischio condiviso. È una trattativa molto complessa. Prima però in realtà ci eravamo fermati, Said, al ragionamento sul petrolio, perché lo vado di nuovo a monitorare. Questa mattina la violenza del calo delle quotazioni del greggio americano è veramente importante. Siamo arrivati intorno a, per una scadenza, intorno ai $15 al barile. Adesso vedo però la scadenza su giugno è a 23. Intanto, che cosa vuol dire questa discrepanza? Perché lei appunto ci anticipava che sono anche delle ragioni di carattere tecnico, oltre a tutte quelle che spieghiamo ogni giorno sulla paralisi, diciamo, della domanda di petrolio. Allora, le ragioni tecniche risiedono nella necessità di passare da un contratto all'altro come copertura di un prodotto che si usa molto negli Stati Uniti per esporsi al petrolio, che è un ETF, o meglio, come si chiama da noi, un ETC, cioè uno di quei prodotti sintetici che rappresentano una commodity, un bene materiale, e che in questo caso rappresenta oltre un quarto di tutto il futuro di quella scadenza, della prima scadenza del petrolio. Quindi, dovendo spostarsi da una scadenza all'altra, si vende la prima e si comprano le altre. Questo spiega perché c'è questa grossa differenza tra la scadenza più vicina che viene venduta e quelle più distanti che invece vengono comperate, che sono anch'esse in calo perché la domanda è sicuramente in forte calo a causa degli effetti legati alla chiusura delle economie di gran parte del mondo, però c'è anche questo effetto tecnico che esaspera il movimento, ecco. Allora, andiamo poi all'altro tema europeo, Said, perché anche questo è molto importante. Mi piacerebbe capire quale soluzione piace agli operatori finanziari, agli operatori che guardano ai mercati per cercare delle opportunità di investimento. Che tipo di trattativa ci dobbiamo aspettare questa settimana tra le varie posizioni molto distanti fra i bisogni dell'Italia e le resistenze dei paesi che vengono che si ritengono particolarmente virtuosi nella gestione anche delle finanze pubbliche? L'Olanda, come sappiamo, è stata l'economia che più di tutte ha ostacolato appunto la possibilità di utilizzare i cosiddetti corona bond, e quindi dall'Italia si fa fatica ad accettare l'idea di adottare il meccanismo europeo di stabilità. Ma a voi operatori quale soluzione piacerebbe particolarmente? Più che una soluzione specifica è un importo che piacerebbe, che sia ovviamente il più ampio possibile, cioè quello che è certo è che per rilanciare l'economia europea, analogamente a quanto è stato fatto dalla Fed negli Stati Uniti, servono importi mai visti prima d'ora. Giusto per dare un termine di paragone, la Fed ha già oltrepassato in questa prima fase di manovre contro la recessione oltre il 30% di quanto aveva stanziato nel 2008 per cercare di venirne fuori, quindi masse di denaro enorme. Qualcosa di analogo dovrebbe fare l'Europa. Il problema è un po' chi lo fa e con quale modalità. Allora, la questione del MES, che tanto interessa da un punto di vista politico l'Italia perché è un argomento, come dire, con una forte colorazione politica, è in realtà un argomento per certi versi minoritario da un punto di vista quantitativo, perché comunque l'importo che verrebbe eventualmente erogato a favore del singolo paese è, per le necessità che ci sono in questo momento, non dico irrilevante, ma sicuramente non risolutivo. Mentre più importante sono quelle soluzioni che vedono la possibilità di emettere obbligazioni, possibilmente chiaramente con la maggior condivisione possibile di rischio, che generano però quell'effetto moltiplicatore che consente di mettere sul piatto importi molto molto rotondi, fino ai 1.000 miliardi di euro o addirittura, come in alcuni piani presentati, 1.500. Ecco, questo sarebbe l'importo che ci si aspetta, certo, per avere una forza maggiore. Ecco. Esatto, ma secondo lei lo spread fra BTP e Bund, che questa mattina è a 240 punti base, ci sta già dando l'idea sulla piega che prenderanno le trattative europee? Ma non, questo non è necessariamente detto, è chiaro che la necessità dell'Italia di avere molti soldi da poter spendere per rilanciare le proprie economie, da poter mettere sul piatto, è sicuramente essenziale, e tutto quello che in qualche modo allontana la possibilità che ci sia questo genere di strumenti, in qualche modo finisce per lasciare il solo bilancio dello Stato italiano come unico, come dire, fornitore di liquidità al sistema, quindi in qualche modo lo indebolisce. Quindi è un po' un, come dire, un meccanismo automatico, di una reazione automatica dei mercati, ma che rientrerebbe nel caso invece si raggiungesse una soluzione che invece aiuta, e aiuta in maniera energica. Situazione assolutamente fluida ancora. Grazie a Massimo Saitta per essere stato con noi. Intanto rapidamente i migliori titoli, li diamo adesso, ma fra 8 minuti neanche, ho il nuovo aggiornamento di borsa. Buzzi Unicem più 5, Amplifon più 5, Diasorin, tanto per cambiare, più 4,36%. I peggiori, Nexi meno 2,26, Campari che stacca il dividendo meno 2, Eni meno 1,89 per l'effetto del prezzo del petrolio, stacca il dividendo anche Ferrari, il titolo in calo dello 0,9%. Lasciamo la borsa, andiamo al nostro giornale radio del risparmio. Amore, i soldi. Allora, tanti temi abbiamo questa mattina in calendario e ognuno avrebbe bisogno di essere approfondito, perché sono temi che vi interessano tutti direttamente. Allora, intanto vi volevo segnalare un quesito del lunedì dell'Esperto Risponde, perché Matteo Rizzonico risponde ad una domanda che ci avete fatto in tanti, tantissimi, e ai quali all'inizio non avevamo risposto in maniera molto confortante, un po' perché non c'era chiarezza dei tempi, perché anche in questo caso si viaggiava in ordine sparso sulla base dell'esito di trattative esclusivamente private. Di che cosa stiamo parlando? Dell'affitto che pagano gli studenti fuori sede. Io sono di Perugia, vado a studiare a Milano, naturalmente la mia famiglia mi paga l'affitto, ma non frequentando l'università in questo periodo, perché sono tutte chiuse, è chiaro che le famiglie vorrebbero anche possibilmente interrompere questi contratti, e all'inizio avevamo detto che era tutto possibile nel caso in cui chiaramente il padrone di casa fosse d'accordo, ma non c'è stata nessuna iniziativa di sistema, nessuna misura che obbligasse ai proprietari ad interrompere i contratti d'affitto. Però rispondendo appunto ad un quesito arrivato alle sole 24 ore, mio figlio è studente universitario fuori sede, abitiamo a Firenze, lui studia al Politecnico di Milano, è rientrato in famiglia il 12 febbraio, prima del blocco delle università e prima delle misure di isolamento disposte dal governo, di conseguenza non ha potuto più spostarsi, però noi da allora continuiamo a pagare l'affitto per l'alloggio in una stanza che di fatto non è possibile utilizzare, mentre secondo il proprietario, e ha ragione anche lui, essa risulta ancora occupata e disponibile per l'utilizzo. Si può recedere al contratto? Rizzonico dice sì, perché si può evocare appunto la causa di forza maggiore, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno 3 mesi prima, per cui magari adesso dovete continuare a pagare, ma mettete in mora il proprietario, mandate questa raccomandata e quantomeno appunto prossimamente potrete sciogliervi dal contratto nel caso questo abbia una durata lunga. Fra i gravi motivi si ritiene possa annoverarsi evidentemente, ove la crisi si protragga a lungo, dice Rizzonico, l'epidemia da Covid-19 che ha colpito in maniera particolarmente dura la Lombardia, che tra l'altro non consente la libera circolazione su tutto il territorio nazionale. Poi alcuni ascoltatori, è successo anche qualche istante fa su Facebook, ho visto una domanda che è arrivata da una ascoltatrice dicendo: no, sono iscritta ad una gestione separata INPS e non ho ancora avuto l'accredito sul mio conto corrente dei 600 euro appunto dell'indennità riconosciuta alle partite IVA che ne hanno fatto richiesta. Allora ci risulta, lo dico all'ascoltatrice e a tutti coloro che non hanno ancora visto liquidato questo importo, a sabato scorso l'INPS aveva erogato 3.100.000 indennità da 600 euro appunto previste dal decreto Cura Italia. Ulteriori 250.000 hanno l'IBAN in via di correzione in corrispondenza con gli utenti, per cui mettete anche i dati corretti quando fate la domanda. fatela con calma, perdeteci 10 minuti in più, ma mettete i dati corretti perché poi vedete che cosa succede. 500.000 sono ancora in istruttoria, per cui l'INPS non ha completato tutti gli accrediti, abbiate pazienza, tra oggi e domani speriamo che possano arrivare tutti quanti, ma più di 3 milioni appunto di indennità sono già state erogate e quindi ancora un po' di pazienza, arriveranno questi soldi a tutti. L'INPS però ha voluto anche precisare che tutti coloro che si aspettano di avere una risposta dall'INPS nel caso in cui siano iscritti ad una cassa previdenziale privata, è dovuta intervenire l'INPS per dire: inutile che ci rivolgete, che vi rivolgete a noi, ma vi dovete rivolgere alla vostra cassa se avete fatto domanda a questa, appunto. E ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con il, forse 10 giorni fa, con il presidente di ADEP, l'associazione delle casse private, per cui è inutile lamentarsi con l'INPS, non è questo l'interlocutore che vi deve erogare l'importo, ricordando anche che c'è stato un incidente di percorso per le casse, appunto, che ha dovuto gestire anche una rimodulazione dei requisiti per poter fare richiesta delle indennità, appunto, per gli iscritti alle casse private. E questa è una cosa. Quali altre cose vi posso raccontare? Che sulle pagine del Sole 24 Ore oggi c'è una articolata inchiestina fatta da tre colleghi, appunto, sul tema delle famiglie che non possono mandare i bambini agli asili e alle scuole, appunto, private. Sgravi fiscali più robusti per le spese scolastiche ed un fondo ad hoc per aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rette che poi, appunto, sono pagate, magari adesso sono sospese perché per i nidi comunali per esempio non si pagano, ma c'è chi magari ha pagato in anticipo un intero anno e adesso si chiede se il servizio non fruito possa essere in qualche maniera rimborsato, indennizzato. Queste due cose che vi dicevo sono le due alternative allo studio per sostenere le 12.000 scuole paritarie messe in crisi dalla sospensione dei servizi scolastici ed educativi per il coronavirus. Le scuole paritarie sono frequentate da 866.000 allievi i bambini e quindi c'è un allarme molto importante che peraltro riguarda anche i gestori degli stessi nidi, dopo che i comuni hanno disposto l'azzeramento da marzo dei contributi a carico delle famiglie, per non parlare poi di un altro aspetto per il quale magari siamo un po' meno sensibili, ma per il quale dobbiamo essere sensibili comunque. Ai comuni non arrivano questi soldi e quindi è un domino, un ulteriore problema che si aggiunge appunto ai tanti altri. Prima di andare in pausa per la borsa, però vorrei sentire il di oggi. Dillo a due di denari. Volevo lasciare la mia esperienza. Sono un dipendente bancario. L'ABI sigla facilmente, più o meno facilmente, accordi con il governo, con lo Stato, col MISE. Dopodiché, siglati questi accordi, diciamo nella notte, dopo lunghe trattative eccetera eccetera, parte immediatamente una comunicazione gestita a livello nazionale dove si dice: è tutto pronto, andate in banca. Non è così. Ad oggi ancora ci ritroviamo a non sapere, a non avere dettagli su diverse iniziative, o ancor peggio, a mio avviso, magari ci sono i dettagli, ma non ci sono piattaforme operative. Mi riferisco per esempio al famoso Fondo di Solidarietà Gasparrini per la sospensione dei mutui privati. Non c'è nessun interesse a osteggiare un'eventuale richiesta del mio cliente o dei clienti in genere. L'attività ordinaria va avanti, deve andare avanti in maniera contingentata, che è già un problema. Alla fine della fiera le mani che lavorano sono sempre le stesse. Vi assicuro che non sto vivendo bene, che sono particolarmente sotto pressione e che comunque sia ieri, prima del coronavirus, certo non ero a braccia conserte. Guardi, questa siamo pure in ritardo, ma una risposta va data a questo ascoltatore che abbiamo percepito essere particolarmente stressato per la tensione che si vive in questo periodo. In banca, lo sappiamo, è dovuta intervenire anche la FABI, la federazione appunto dei bancari, il sindacato di categoria, perché è molto preoccupato anche per la tensione che si sta generando fra gli addetti ai lavori, quindi impiegati, funzionari eccetera, e la clientela, che ovviamente vuole delle risposte immediate. Anche da quel punto di vista sappiamo che molta pazienza non ne hanno. Io volevo solo dire una cosa a questo operatore bancario. Sul fondo Gasparrini non condivido quello che lei dice, perché Questo fondo è già utilizzato da molto tempo. Consap, che è l'organismo del Ministero dell'Economia che ha attivato tutta la procedura, è pronta da almeno 10 giorni, noi ne abbiamo parlato. Ha subito implementato tutte le istruzioni da dare alle persone, introducendo nel modulo anche tutte le caratteristiche che deve avere la partita IVA che va a chiedere la sospensione appunto del mutuo. Per cui da quel punto di vista si era pronti. Io le posso assicurare che stessa banca, filiali diverse, si comportano in maniera diversa. C'è da una parte, può esserci il funzionario particolarmente proattivo e disponibile a risolvere i problemi, dall'altra parte ci può essere per la medesima banca, in filiale diversa, un funzionario particolarmente solerte che aspetta le istruzioni del capo, aspetta tutti i moduli ed è rigidissimo se non ha la procedura che dice lui in testa. Per cui questo è vero, non me lo invento io, potrei mandarvi e farvi leggere le centinaia di mail che ci arrivano da parte degli ascoltatori. Molto spesso è anche un problema di volontà, però vi siamo vicini, siamo consapevoli del fatto che siete veramente oberati, travolti da ogni tipologia di lavoro, persino l'anticipo della cassa integrazione ai lavoratori avete dovuto gestire, per cui mi raccomando, tenete duro anche voi e noi faremo i bravi, avremo un po' più di pazienza nelle nostre richieste. Ci fermiamo la borsa e poi andiamo all'RC Auto. Pecunia non OLED. Di denari. Buongiorno, Vanna da Roma. Io autocertifico la mia assicurazione che dal 8 giorno al 8 giorno non ho mosso la macchina e la tolgo da ogni richiesta di danno o quant'altro. Io credo che non sia così complicato, anche se parcheggiata esternamente, perché non tutti hanno un garage, un cortile o quant'altro. Non mi pare una cosa così complicata. Buongiorno, due di denari. Volevo un'informazione. Io ho comprato una casa al mare, ma se non posso scendere, posso chiedere a chi me l'ha venduta di darmi indietro i soldi o almeno una parte, perché non posso usufruire di un bene che ho pagato. Non vedo perché devo pagarlo per intero se posso usarlo solo per un po'. Vabbè, ma questo ascoltatore mi provoca perché sa che io sono fumantina come lui, le pretese esagerate in questo periodo mi sono state un po' sulla gola, Mauro lo sa bene perché mi chiama fiammiferino, ma insomma, e ritenevo che anche questa dell'RC Auto fosse esagerata. È anche vero però che in questo momento appunto con il blocco quasi radicale nel paese appunto del traffico, i sinistri sono molti meno e quindi le compagnie stanno risparmiando, e da qui si è un po' generata la discussione del restituiamo qualcosa ai nostri clienti. Prima di salutare i miei ospiti di questa parte della trasmissione, volevo ridere con un ascoltatore che si è accorto che invece di dire amministrazione Trump sono tornata un po' dietro nel tempo e ho scomodato Bush, e non lo so per quale motivo, evidentemente ho fatto una strana associazione di idee. Mi piaceva forse di più con l'amministrazione. Mi piaceva di più quella di Clinton e quella di Obama, però è un gusto personale. Allora, Andrea Pollo, direttore della comunicazione di Facile.it, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Andrea, buongiorno Azze, anche grazie a Fabrizio Premuti, presidente di Consumer Italia, l'associazione dei consumatori con la K, che salutiamo. Fabrizio, ben trovate, grazie. Grazie, buongiorno a voi. Allora Andrea, partiamo con te, perché Facile.it ha evidentemente un po' colto come noi quello che erano le esigenze che arrivavano da molti clienti delle compagnie di assicurazione, che dicevano: ma insomma, io l'auto adesso la sto tenendo ferma, ma perché devo pagare il premio, ma l'ho già pagato, ma perché l'assicurazione non mi restituisce qualcosa. Io devo dirti che avevo espresso tutte le mie perplessità rispetto a queste richieste, perché nella gerarchia dei problemi che si è creata in questo periodo non mi sembrava proprio una priorità, ecco, e invece evidentemente mi sono sbagliata, perché l'ANIA ha detto faremo di tutto per accontentare i nostri clienti, e voi avete anche fatto qualcosa in più, avete indagato fra appunto nel mondo assicurativo e avete capito che come dire, un pochino di risparmio lo si potrebbe anche portare a casa, però ci sono delle condizioni. Allora ci racconti Andrea cosa avete, qual è il frutto della vostra ricognizione appunto del vostro portale? Beh, ci siamo basati su quello che è la modifica che arriva in base al decreto legge del 17 marzo e che quindi, se l'emendamento dovesse essere approvato in maniera definitiva, consentirebbe di sospendere fino al 31 luglio sia l'RC auto sia l'RC moto in corso di validità, allungando quindi in buona sintesi la durata della copertura per un periodo che sarà pari ai giorni dell'interruzione. Quindi numeri alla mano, calcolando ad esempio sull'auto quello che è il premio medio di un automobilista in questo periodo, parliamo di circa 30-40 euro di risparmio ogni mese. Attenzione però, perché come ad esempio è emerso anche dalla prima delle telefonate che avete mandato in onda della signora prima, ci sono dei vincoli piuttosto stringenti. Uno di questi è proprio anche la necessità di lasciare il veicolo in un'area privata, un ricovero che potrebbe essere un box, un posto auto condominiale, comunque sia non per strada, perché ad esempio se così facessimo saremo intanto esposti al rischio di una sanzione pecuniaria, perché avremo de facto una macchina scoperta da assicurazioni in un luogo pubblico, che potrebbe anche involontariamente generare dei danni, sia perché pensiamo al banalissimo caso del freno a mano che si rompe e danneggia un altro veicolo, un principio di incendio, può capitare anche questo, quindi sono solo una serie di elementi che vanno considerati. Il risparmio comunque in realtà potrebbe essere messo in atto anche avendo un po' di accortezza e magari verificando se nel momento in cui noi riprenderemo a usare l'auto, magari un'altra assicurazione ci offre un premio diverso, quindi utilizziamo questo anche perché a quel punto il nostro momento di assicurazione potrebbe diventare più spostato come partenza della data rispetto a quella precedente. Quindi insomma, allora, intanto la prima cosa da chiarire è che a prescindere dal fatto che io posso andare dalla mia compagnia e chiedere una disponibilità a rinegoziare il premio e la compagnia può farlo, non abbiamo ancora una legge su questo. Abbiamo questo emendamento che appunto è stato inserito nel decreto Cura Italia, appunto nella sua fase di conversione al Senato, ma non abbiamo ancora nero su bianco una norma che dia la possibilità da qui al 31 luglio appunto di andare a chiedere la sospensione alla compagnia. Su questo, Andrea, siamo pacifici, giusto? Mi sono persa qualcosa? No, non si è perso niente, anche se è vero che ci sono comunque delle compagnie che stanno già, tra virgolette, volontariamente in qualche maniera riconoscendo un voucher, esatto, diciamo così, di sconto a quelli che sono già i loro clienti, che verrà utilizzato nel momento di rinnovo, ma anche, va detto, comunque ci sono le compagnie che hanno a livello medio e generale abbassato tantissimo il premio, perché ad esempio, secondo l'osservatorio dei prezzi che noi stessi abbiamo condotto sul mese di marzo, rispetto ad un anno fa i premi sono calati di circa l'8-9%, quindi diciamo cioè che questo è già un effetto del praticamente blocco in tante città della circolazione, sì, di conseguenza dei sinistri. Bravissima, perché un pezzo di quello che noi paghiamo è legato appunto alla sinistrosità, certo. Si gira di meno, c'è meno rischio di fare incidenti, quindi questo è un elemento di cui già tutti possiamo beneficiare. Attenzione, ecco, però, a voler vedere un effetto, uno dei quelli che si contano sulle dita di una mano, un effetto positivo del coronavirus, esatto, tendenza che non avremmo mai sperato di poter vedere, una riduzione appunto dei premi che in realtà le compagnie un po' dicono di aver avuto negli ultimi anni, ma è sempre la Sì. Senza dubbio avuto in una maniera così netta, così veloce, da un mese per l'altro, forse non era mai capitato, di sicuro è una situazione di base che ci metterà tutti con la possibilità di ripartire con dei costi notevolmente inferiori rispetto a quelli che pagavamo pre-Covid. Grazie ad Andrea Polo. Se volete vedere i dettagli di questa indagine andate sul sito di facile.it e vi racconta effettivamente, si fa una piccola quantificazione di quello che potrebbe essere il nostro risparmio, chiaramente a seconda delle caratteristiche della nostra auto e di noi anche come assicuratori, appunto, che potremmo ottenere nel caso decidessimo per questa sospensione nel caso in cui questo diventi una norma, nel caso in cui anche la compagnia ci dia la disponibilità. Fabrizio Premuti, dove funziona e dove non funziona questa potenziale norma che potrebbe vivere tra di noi a breve? Beh, intanto bisognerà poi vedere se diventerà una norma. Esatto. Io qualche dubbio ce l'ho. Ma comunque sia, noi stiamo andando fortunatamente verso la fase 2, cioè verso la fase della riapertura. Quindi quando anche dovesse arrivare questa norma, interesserà un numero di persone estremamente ridotto rispetto a ciò che è accaduto nel mese di marzo e di aprile. E la sospensione a quel punto, qualche dubbio ci viene, no? Se come dire, attivarla o meno. Io sospendo, poi magari devo riprendere la macchina dopo tre giorni. Esatto. Che ho sospeso a fare, e quindi a questo punto rientra in gioco quello che non era obbligatorio per nessuno, ma era, come dire, volontario per le imprese: fare loro un gesto di buonsenso, andare loro ad abbassare le tariffe o a restituire parte delle tariffe. Adesso qualcuno è partito con un dodicesimo di restituzione, e lo dico apposta un dodicesimo perché dire il mese. E poi non è una restituzione, ricordiamo, è un voucher che ti dice, la compagnia ti dice: io ti riconosco questo voucher e quindi ti scalo questa cifra quando tu verrai a rinnovare, per cui teniamo anche in considerazione questo aspetto, che tu non puoi. Assolutamente sì, però quello che c'è di importante è che questo è innescato ovviamente un meccanismo, come dire, di concorrenziale, di emulazione da parte anche delle altre imprese, perché tutte quante adesso cominciano a chiedersi come fare per, se non altro da un punto di vista dell'immagine, correre dietro a chi già l'ha fatto. E facendo magari anche qualcosa di meglio, ovviamente. Facendo anche qualcosa di meglio. Io ero al telefono poco fa con un'impresa, adesso non possiamo fare nomi per non fare pubblicità a nessuno, ovviamente. Cosa stanno inventandosi, Loro stanno inventandosi qualcosa che va al di là di questo, un voucher che potrà essere utilizzato su qualsiasi tipo di operazione venga fatta all'interno dell'impresa, non necessariamente sull'auto, e che non sarà un voucher di un mese, ma sarà un voucher che tiene conto dell'intera sospensione. D'altra parte, noi dobbiamo rendere conto anche dei numeri. L'RC Auto in Italia vale dai 16 ai 17 miliardi l'anno, cioè quello che pagano i cittadini italiani alle imprese d'assicurazione. Con questo abbattimento dei sinistri, di cui ancora l'entità non conosciamo, Premuti, quante risorse potrebbero essersi liberate da parte dei gruppi? Ma in realtà noi conosciamo già le indicazioni, ce le abbiamo già di quello che è l'abbattimento dei sinistri. E se teniamo anche conto che il costo dei sinistri è il 70% di quello che incassano le imprese, allora ci viene facile pensare che sono diverse centinaia di milioni che rimangono in pancia alle imprese su un rischio che non hanno corso. Certo. Allora ci fermiamo un attimo. Certo. Ogni mese. Fabrizio, ci fermiamo perché abbiamo la pausa e adesso giustamente c'è il traffico. Ma c'era un ascoltatore che ci aveva chiamato all'800 24 00 24. Non l'abbiamo messo in onda, ma è uno dei primi arrivati e la leggo io la considerazione perché è interessante. Ma è così difficile lasciare tutto com'è per le assicurazioni, lasciare tutto com'è e invece rifare i calcoli l'anno prossimo? Pietro, lei ha ragione. Effettivamente, secondo me sarebbe stato più ragionevole, piuttosto che mettersi adesso a studiare per forza per ogni cliente una soluzione per fargli risparmiare un mese di assicurazione. L'anno prossimo avremmo avuto un bilancio, credo, preciso, circostanziato e dettagliato della drastico calo della sinistrosità, quindi risorse liberate per le compagnie e di conseguenza pacchetti commerciali favorevoli per i consumatori quando riprenderanno tutti a circolare in auto. Io la vedo così, si fa tutto un po' più serenamente. Voi invece volete il risparmio immediato e qua una quadra bisogna trovarla. Intanto andiamo a sentire il traffico. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato delle intermediazioni immobiliari in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare essere operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Due di denari. Allora Fabrizio Premuti, la gattina frettolosa partorisce i gattini ciechi, come si dice. Adesso non vorrei scomodare, insomma, una metafora inadatta al tema di questa mattina, ma il punto è: auto ferme da marzo più o meno, molte, e molti chiedono, vabbè, allora io questa assicurazione qua non voglio pagarla, nell'incertezza anche di quando le nostre attività economico-produttive ripartiranno, e quindi da un giorno all'altro può anche essere necessario rimettere in moto l'auto. Io l'ho tenuta ferma personalmente dal 12 marzo, l'ho rimessa in moto questa mattina, ma onestamente cioè non mi è venuto neanche in mente di fare questa richiesta, ma non perché io sia particolarmente virtuosa, ma proprio perché mi sembra anche in questa condizione di emergenza una procedura un po' faraginosa. Forse è meglio fare un calcolo, una considerazione con il proprio agente a situazione un pochino più rasserenata, e visto che non l'ho usata per un mese, caro mio assicuratore, vienimi incontro con non so, un'offerta, una proposta. Che ne pensi, Fabrizio? Assolutamente sì, è ragionevole. Io direi che è razionale non pensare a quelle che possono essere le soluzioni tampone, quelle d'emergenza, che possono anche starci, per carità, perché poi fa parte del gioco della concorrenza e delle imprese, quindi si può anche stare. Però noi i conti li faremo poi in realtà alla fine dell'anno, quando noi avremo un pagamento dei sinistri che è notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente. Probabilmente avranno pagato le imprese 4 o 5 miliardi di sinistri in meno, e allora la rimodulazione delle tariffe verrà fatta senz'altro, perché c'è anche, certo, un altro osservatore oltre alle associazioni dei consumatori, che è il regolatore, che è l'IVAS, mm-hmm, quindi l'autorità di controllo. Comunque anche in questo entra in gioco. È vero che non può fare le tariffe, però è altrettanto vero che davanti a una, come dire, differenza così ampia rispetto all'anno precedente, le tariffe verranno rimodulate. Esatto, fa quella che si chiama moral suasion in termini. Assolutamente sì, ecco. Assolutamente sì. Quello che a me stupiva è che le imprese, fino a che qualcuno non è uscito fuori, siano rimaste in silenzio. Cioè, tutto sommato, le cose vanno bene, siamo zitti, prendiamo una posizione defilata, magari non se ne accorge nessuno. Figuriamoci. Guarda, ecco, non avevano fatti i conti con i nostri ascoltatori, che si sono accorti immediatamente. Al primo giorno di stop hanno già cominciato a scriverci. E invece... ma io immagino, ma è anche giusto, no? Perché da un certo punto di vista fare la posizione del defilato non è una roba razionale, non è neanche una roba che dimostri responsabilità sociale d'impresa. In un momento in cui siamo in una difficoltà estrema su tutto, e l'economia ancora sopra al resto dei problemi, io dico, ma possibile mai che le imprese debbano rimanere in silenzio? Però cioè, Fabrizio, voluto... è anche vero che dal governo, come tu sai, insomma, i lockdown, perché li chiamiamo così, cioè la sospensione delle attività, sono arrivati con provvedimenti che hanno avuto durate di 15 giorni, quindi non c'è stato un provvedimento che all'inizio di marzo ci ha detto per due mesi non ci si muove più. Magari forse con un orizzonte temporale più lungo e più preciso, le compagnie avrebbero potuto dire allora facciamo qualcosa, ma viaggiando con provvedimenti di durata quindicinale, non trovi? Forse può anche esserci questo dietro alla motivazione. Io faccio un po' anche quella che li difende, sennò sembra che attacca sempre tutti, banche e assicurazione. No, ma in realtà era 15 giorni per 15 giorni, ma verso il peggioramento e non il miglioramento. Che oggi si comincia a parlare di fase 2, è proprio un cominciare a parlare, ma ancora non sappiamo come questa fase 2 poi verrà applicata in realtà. Il problema è che noi dall'origine sapevamo che saremmo stati fermi sicuramente per il mese d'aprile, fino al mese d'aprile. Questo era già scontato, lo sapeva il cittadino, l'ultimo dei cittadini lo sapeva, quindi non è che il governo non lo sapesse o le imprese non l'avessero, come dire, messo in cantiere. Il problema è che le imprese forse se ne stanno avvantaggiando in una maniera che non dimostra responsabilità sociale. Insomma, adesso riproponiamo noi il tema in maniera molto forte. Fabrizio, ti faccio sentire due ascoltatori, poi ti lascio completare il tuo ragionamento sul comportamento generale delle assicurazioni sistema. Santo, dalla provincia di Reggio Calabria, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Ci dica. Allora, io ho ritirato l'assicurazione mi scadeva il 25 di marzo, quindi 15 giorni, oltre è stato prorogato di 30 giorni, quindi l'ho ritirata il 15 di aprile, insomma, voglio dire, sono andato un po' oltre perché avevo un mese, i 15 giorni erano stati nel mentre, diciamo, prorogati a 30, quindi, però l'ho ritirata ugualmente, diciamo. E naturalmente poi cosa intende per ritirata, Santo? Ha pagato il premio, ha versato il premio invece di farlo regolarmente, pur sapendo che la mia assicurazione aveva disposto già il bonus, e quindi ho fatto la richiesta attraverso il sito dell'assicurazione stessa, va bene? Sì. E quindi l'ho mandato regolarmente, quindi dovrei ricevere un bonus, diciamo, voglio dire che mi verrà scontato poi a rinnovo. Un altro anno, diciamo, a rinnovo della polizza, a marzo, sì, dell'anno prossimo, diciamo. Okay. Quindi naturalmente, solo che non ho, siccome nella richiesta, diciamo, del sito diceva persona fisica o persona giuridica, mi è sfuggito e non ho messo persona fisica e neanche persona giuridica, naturalmente, perché non lo sono. Vabbè, credo, ma Santo, comunque, ma lo sapranno, Santo Cielo, lei dice per non aver messo questo dettaglio non le danno il bonus, sì, guardi. Ma non ho problemi, ma io però mi farò, diciamo, promotore presso la mia assicurazione. Bravo. Per sapere se gli è arrivato, quando sarà, insomma. Voleva chiedere qualcosa, poi, Santo, oltre a raccontarci? Esatto, sì. Nel mentre io ho saputo, cioè è in attesa l'approvazione eventuale di quel famoso emendamento, sì? Esattamente, per il termo della macchina, perché noi abbiamo due macchine, mia moglie la usa per fare la spesa, lei una volta alla settimana. L'altra, che è mia, bloccata fin da quando c'è stato lo stop legiferato, diciamo, dal Parlamento. Ma lei questo rinnovo di cui ci ha parlato per quale auto l'ha fatta? Per quella che va a fare per la spesa, mia. Quella, no, quella per, che no, sta no, ferma? No, per la mia. Certo, la mia, e quindi per questa che le hanno dato il bonus. Sì, per questo che ha chiesto il bonus. Santo, adesso che dovevamo quagliare la domanda, purtroppo non la sentiamo più. E vabbè, rimaniamo un po' in sospeso, allora vado a Paola da Biella. Paola, sì. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io premetto che telefono non per me, perché io preferisco soluzioni più comode per le vacanze, ma per i miei figli, sì, che hanno un camper che è in gremistaggio, e volevo semplicemente sapere se questa sospensione dell'assicurazione eventuale può valere anche per questo tipo di veicolo. Certo, Paola, questo. Grazie. Non lo sappiamo ancora perché non abbiamo un bel nulla sotto gli occhi, però Fabrizio Premuti, teoricamente, insomma, visto che quest'anno chissà le vacanze con che binocolo le vedremo, chissà se anche per i camper potrà essere concessa questa sospensione. Ma diciamo che il camper è un tipo di veicolo al quale è stato da sempre concesso di fare sospensioni, quindi questo è un motivo in più, ma proprio perché l'utilizzo è, come dire, chiuso in un arco di tempo che è molto ristretto, che è quello dei mesi estivi, molto spesso i proprietari di camper hanno usufruito nel corso dell'anno delle sospensioni del premio. Allora, quindi continuerà questo tipo di atteggiamento da parte delle imprese. Comunque, insomma, signori, per adesso stiamo parlando di qualcosa che non abbiamo. Non appena avremo certezza di come funzionerà, saremo qua pronti a darvi tutti i dettagli. Se vi interessa tanto questa sospensione, informatevi naturalmente, e quindi non appena avremo i dettagli, sperando che i primi ad essere informati saranno i nostri agenti di assicurazione, e quindi potranno loro in autonomia venirci a proporre appunto questa soluzione. Fabrizio, ci manca un minuto prima dei saluti. L'ultima raccomandazione che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori su questo tema? Allora, io ritornerei un attimino su quello che diceva l'altra persona di Facile.it. Sì. Ricordiamoci che i veicoli debbono essere assicurati anche quando sono parcheggiati in strada. Questa è una cosa fondamentale, perché a molti sfugge il fatto, ma tanto è fermo, quindi certo, a che serve? Non è così, la legge dice che deve essere assicurato anche quando è parcheggiato, quindi su questa cosa stiamoci molto attenti. L'altra cosa è la riflessione che va fatta, ma io sono sicuro che a me l'auto non servirà, perché quando c'è una sospensione, quell'auto non può essere utilizzata, perché non è assicurata. Esatto, quindi, e non potete chiamare l'assicuratore e dirgli guarda che domattina la rimetto in moto e parto, perché non si attiva in 3 secondi la copertura, giusto Fabrizio? Assolutamente ecco. Sì, e poi cogliete tutte le opportunità che vi vengono date dalle vostre imprese assicuratrici, perché tanto poi la tariffa il prossimo anno seguirà quello del corso del pagamento dei sinistri, quindi è ovvio che godremo tutti di una tariffa un po' più bassa. Bene, allora pazienza anche su questo fronte, come su tutti gli altri aperti. Io ringrazio Fabrizio Premuti per essere stato con noi. Tutti i ragazzi che mi hanno seguito in questa badanza maschile quest'oggi, sembra un harem al contrario. E quindi grazie a tutti. Io ritorno stasera a Focus Economia e domani regolarmente con Mauro Meazza per 2 di Denari. Buona giornata a tutti.